Euroreportage. Eurosur, il grande fratello del Mediterraneo, di Alessandra Schepisi. Attraversata al mare io ho tentato due volte. La prima volta che è rotta la nostra barca e siamo rimasti in mezzo al mare 3 giorni, senza acqua, senza cibo, e abbiamo chiesto anche aiuto, soccorso, e nessuno ci è venuto a aiutarci. Perciò ho dovuto di ritornare indietro grazie a un nave militare dalla Tunisia che ci ha portato in Tunisia, se anche non siamo partiti dalla Tunisia. Da dove siete partiti esattamente la prima volta? Dalla Libia. E quindi innanzitutto hai dovuto raggiungere la Libia? La Libia. Prima di raggiungere la Libia io ci ho messo 4 mesi per arrivare alla Libia. E l'unica scelta che avevo era quella di abbandonare la mia terra, e quando scappi di una guerra vuol dire arrivi dove ti porta la vita o dove ti porta la fortuna. Quindi il nostro viaggio, se anche dura mesi e mesi, e alla fine una volta che arrivi a Lampedusa o una terraferma, vuol dire che hai trovato la tua fortuna, e la nostra fortuna si chiama Lampedusa. Zakaria Mohamed Ali è un profugo somalo sbarcato a Lampedusa il 13 agosto del 2008. Un viaggio durato mesi, prima lungo il deserto dell'Africa, poi su una carretta del mare. Zakaria ce lo racconta ai nostri microfoni e lo racconta anche in un documentario da lui realizzato. Lui può farlo, ma tanti suoi compagni quel viaggio non lo hanno potuto raccontare mai. Centinaia di profughi ogni anno perdono la vita durante la traversata verso il sogno europeo. Nel mare di Sicilia, al largo di Lampedusa, lo scorso ottobre annegarono 370 migranti, il più grave naufragio che l'Europa ricordi. Da quella tragedia non si torna indietro, ha giurato il presidente della Commissione europea, Manuel Barroso, e Bruxelles effettivamente, sull'onda di quel naufragio, ha impresso un'accelerata sull'adozione di alcuni strumenti necessari per salvare le vite in mare, anche se molto resta da fare. Tra questi, Eurosur, un nuovo programma di sorveglianza delle frontiere, il cui regolamento è entrato in vigore lo scorso 2 dicembre. Una sorta di grande fratello del Mediterraneo. In Italia, il Centro Nazionale di Coordinamento è a Roma, presso il Polo Tuscolano, intitolato a Roberto Iavarone. Ad occuparsene in prima persona è Rosa Maria Preteroti, dirigente della Polizia di Stato, della Direzione Centrale dell'Immigrazione, della Polizia delle Frontiere, del Ministero dell'Interno. Eurosur è sia uno strumento che un metodo. L'obiettivo sarà raggiunto nel medio-lungo periodo, incrementando lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Attualmente già Eurosur collega ben 18 stati più il nodo che è stato istituito presso l'agenzia Frontex, e nel corso del 2014 verranno collegati anche gli altri stati che al momento non hanno frontiere esterne. Quindi attraverso lo scambio delle informazioni, attraverso il miglioramento del monitoraggio delle attività illegali che vengono compiute a tutte le frontiere esterne dell'Unione Europea, si riuscirà a contrastare la criminalità e si arriverà anche a quello che è non un obiettivo di Eurosur, ma una naturale conseguenza, e che riguarda direttamente i paesi dell'Europa meridionale, Italia, Grecia, Spagna, ovvero contribuire alla salvaguardia della vita umana in mare. Ma come funziona esattamente questo meccanismo? Possiamo proprio spiegarlo nella pratica, anche per esempio quali mezzi, quali tecnologie vengono utilizzate? Eurosur si basa su 3 strutture principali: l'istituzione di centri nazionali di coordinamento. Questi centri nazionali di coordinamento curano la realizzazione di un quadro situazionale nazionale, ovvero tutto quello che succede alle frontiere e tutto quello che si ritiene possa accadere alle proprie frontiere. Queste informazioni vengono inviate all'agenzia Frontex, ma sono in tempo reale messe in comune tra tutti gli Stati membri, ed è questo l'enorme valore aggiunto che ci dà questa struttura. L'agenzia Frontex a sua volta le elabora e riesce a realizzare un quadro situazionale europeo. E l'ultimo passaggio fondamentale, che si rivelerà fondamentale proprio per la prevenzione, è la realizzazione di una Common Pre-Frontier Intelligent Picture. Uno degli obiettivi di Eurosur è infatti quello di riuscire ad arrivare a prevedere ciò che può accadere alle frontiere in modo tale da evitare incidenti e contrastare meglio il fenomeno dell'immigrazione illegale e del cross-border crime. Per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, è uno dei sistemi più complessi in atto, perché noi, il Ministero dell'Interno, ha il coordinamento di tutta l'attività e coopera quotidianamente e le persone sono presenti nel nostro centro nazionale di coordinamento con la Marina Militare, con la Guardia di Finanza, con l'Arma dei Carabinieri, con il Corpo delle Capitanerie di Porto. C'è anche chi ha criticato questo metodo, alcune organizzazioni non governative, si dice che questo sistema rafforza solo il controllo delle frontiere, come dire, rafforza quella che viene definita la fortezza europea, poi in realtà non risolve il problema alla radice, non poi obbligherebbe ovviamente gli stati al salvataggio in mare, dunque non contribuirebbe a evitare tragedie come quella di Lampedusa. Ma guardi, sgombriamo il campo da un equivoco. Tutti gli stati sono obbligati al salvataggio della vita umana in mare. È una legge del mare, un obbligo prima di tutto morale e poi trasfuso in obbligo giuridico, e non è il regolamento Eurosur che obbliga gli stati al salvataggio della vita umana in mare, sono obblighi già esistenti e codificati in virtù di convenzioni e normative internazionali che ovviamente il regolamento Eurosur non può fare altro che richiamare la normativa internazionale già esistente. E guardi, la salvaguardia della vita umana in mare è fondamentale, non può esistere una norma contraria. Uno strumento per meglio identificare, quindi per salvare migranti e rifugiati in mare, ma per alcune associazioni e ONG uno strumento per tenerli lontani dall'Europa, per meglio sigillare le frontiere esterne. Christopher Hein, direttore del Consiglio Italiano Rifugiati. Evitare è certamente troppo a dire, ma l'Eurosur prevede tra l'altro una messa in rete dei vari sistemi satellitari e radar delle navi, quindi di arrivare una sorveglianza precoce certamente maggiore di quello che abbiamo visto proprio la notte del 3 a 4 ottobre, dove tutti noi ci siamo chiesti ma com'è possibile che una nave con più di 500 persone per vari giorni sta sul mare Mediterraneo, sul canale di Sicilia, e nessuno se ne rende conto. Questo ci auguriamo che nel futuro, diciamo, ci sarà un segnale precoce, però bisogna anche essere, diciamo, molto vigile che questo sistema Eurosur è una base per respingere le persone da dove sono venuti, come recentemente per esempio siriani che sono stati respinti dalla Grecia in Turchia, come anche dalla Bulgaria in Turchia. Questo, diciamo, dobbiamo essere veramente attenti che queste misure sono davvero per salvare gente nel mare e non per intercettare e respingere. Ben venga Eurosur, dice anche l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ma il problema va affrontato alla radice. Flavio Di Giacomo, responsabile della comunicazione. Le tragedie si possono evitare chiaramente nel momento in cui si salvano più imbarcazioni, perché spesso è difficile, quando ci sono periodi di grandi arrivi, a volte sono le imbarcazioni che arrivano dietro l'altra, quindi può anche essere difficile per la Guardia Costiera, che fa un lavoro eccezionale. Anch'io di prima persona ho avuto l'occasione di andare con loro a salvataggio in alto mare, però è difficile magari in alcune situazioni, giornate critiche, andare ad aiutare tutte le imbarcazioni in difficoltà. Quindi sicuramente il rafforzamento, le metodologie tecniche finalizzate al soccorso in alto mare è qualcosa che sicuramente va visto con favore. È anche vero che in questi anni, dai racconti che ci sono stati fatti dai migranti, sono stati dei casi in cui, visto che è capitato che alcune pescherecce, altre imbarcazioni, quando hanno salvato dei migranti, poi si sono visti, diciamo, indagati per favoreggiamento di immigrazione clandestina, o comunque la loro imbarcazione è stata sequestrata per oltre un mese, non tutte le imbarcazioni che solcano i Mediterraneo, quando non vedono i barchi di migranti, hanno tratto in salvo i migranti. Magari l'imbarcazione può dare acqua, cibo, ma nei momenti in cui vede che comunque i migranti stanno bene, gli indicano la rotta da seguire e magari non li soccorrono, proprio perché poi hanno paura che la magistratura gli sequestri la barca per un mese o anche oltre. Quindi sicuramente bisogna eliminare tutto questo tipo di misure cautelative, far sì che non ci sia nessun tipo di timore da parte di chi solca il Mediterraneo nel soccorrere i migranti, e che appunto non avranno nessun tipo di conseguenza. Fermo restando che è fondamentale continuare a perseguire i trafficanti di persone, perché sono loro chiaramente i primi responsabili di quello che sta succedendo. Eurosur è dunque solo uno dei tanti strumenti che si potrebbero mettere in campo per evitare altre morti in mare. L'Europa pensa anche alla riforma del diritto d'asilo, permettendo ad esempio ai migranti di presentare nel proprio paese la domanda, impedendo così che si imbarchino in viaggi pericolosi. Ma di questo non se ne parlerà prima di giugno prossimo. Intanto gli sbarchi continuano, sono più che triplicati nell'ultimo anno, si è passati dai 13.000 arrivi del 2012 ai 42.000 del 2013, per colpa delle guerre che insanguinano la Siria e il Vicino Oriente, delle conseguenze delle primavere arabe, della miseria che avanza, e i migranti continuano ad essere disposti a tutto. tutto pur di raggiungere l'Europa. Il miraggio di Lampedusa è più forte della paura della morte. Quando ero in Libia, la prima volta che prendevo la barca, non conoscevo bene Lampedusa. Però nel parco, in mezzo al mare, ho scoperto che c'è questa isola che si chiama Lampedusa. Era di notte, verso le 2. Quella ora siamo arrivati direttamente al porto, dove abbiamo aggrappato sul muro e c'erano alcuni ragazzi con i motorini. Sono stati loro a chiamare i carabinieri e alla fine è arrivato un pullman, mi ricordo era scritto Lampedusa. È da lì che abbiamo scoperto che siamo arrivati a Lampedusa. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.